Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, aspettando Flavio Suardi, in redazione non lo aspettiamo, c'è già Fabio Cantadone in regia, ma dicevo aspettando i colpi o presunti tali dell'Inter, del Milan, della Juventus, di cui parliamo tutti i giorni, ormai vagamente annoiati dai colpi del Real Madrid. Ieri parlavamo di Benzema, era ufficioso, poi nel tardo pomeriggio è diventato ufficiale, il prossimo sulla lista della spesa di Florentino Perez pare sia Ribéry, che ha già detto: ho deciso, voglio andare via dal Bayern di Monaco, voglio andare al Real, l'unica mia destinazione sarà quella. Vedremo. Intanto le notizie di oggi parlano sempre dalla Spagna di una offerta, com'è che la chiamano, scandalosamente scandalosa, del Barcellona per David Villa, 40 milioni di euro più due giocatori, lo scrive oggi Marca, quella sarà la destinazione di David Villa. Però aspettando insomma i colpi o presunti tali di tutti gli altri, vorremmo occuparci oggi di chi si mette a caccia, in Italia naturalmente, a caccia di Milan, Inter e Juventus, approfittando dello spunto che è oggi quello del primo giorno di lavoro della Roma. Con i giallorossi senz'altro tra i cacciatori la Fiorentina, e non è una novità, Napoli e Genoa di sicuro. Queste ultime due, secondo me, non so se siete d'accordo, 800240024 è il numero verde, queste ultime le protagoniste di un mercato davvero molto interessante, almeno fin qui. Vorrei partire proprio dal Genoa, salutando e ringraziando Claudio Onofri. Ciao Claudio, grazie. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno a te. Percy Milito e Thiago Motta restano, Gasperini, questo è il primo vero colpo di mercato, forse il più grande di Preziosi, restano Gasperini e soprattutto rimane un progetto che secondo me è già vincente. Sì, sì, è un progetto che nasce dal fare necessità virtù, nel senso che come è strutturato oggi il calcio è ovvio che bacini medi non possono comunque assurgere a protagonismo assoluto e quindi cercare di raggiungere obiettivi massimi, e allora bisogna avere una strategia valida, che è quella comunque di comprare giocatori a un certo prezzo, valorizzarli, rivenderli per riacquistarne altri magari più giovani, e di conseguenza una ruota che gira in continuo. Fino adesso sinceramente Preziosi l'ha fatto al meglio questo. In questo contesto devo dire grazie, come giustamente hai accennato tu, anche a un allenatore che secondo me è maestro in queste cose, perché attraverso un gioco molto propositivo, sempre molto vincente, non spettacolare in maniera così fine a se stessa, sì, ma anzi ottenendo dei risultati, è chiaro che valorizzi dei giocatori facendoli arrivare a delle quotazioni che poi dopo ci pensano i dirigenti e lo stesso Preziosi a ottimizzare al meglio, quindi Hai centrato perfettamente quello che è lo stato del Genoa in questo momento. Senti, persi quanto ai singoli interpreti di quello spartito, persi Thiago Motta e Milito, arrivano Floccari e Crespo, che possono fare la parte di Milito anche dal punto di vista della leadership, perché Milito e Thiago Motta erano due leader, uno del centrocampo e l'altro dell'attacco. Io credo che a livello di personalità con Floccari e Crespo Gasperini possa stare tranquillo. Non so chi possa prendere la leadership del centrocampo senza il brasiliano. Beh, indubbiamente è un discorso sensato. L'alchimia Floccari-Crespo credo che possa produrre lo stesso risultato che ha prodotto Milito. Ovviamente per ragioni diverse non hanno nessuno dei due lo status che ha raggiunto oggi il principe, nel senso che Crespo sarebbe addirittura superiore se non avesse 34 anni. E l'altro Floccari è comunque un giocatore che non può avere quel tipo di classe che ha Milito, però insieme, facendo un discorso un po' della serva, nel senso che non si possono comunque concretizzare questi concetti a voce, però io credo che i 22 gol di Milito possono essere raggiunti da entrambi con 12 uno, 8 e 10 sì, l'altro, subentrando uno all'altro, giocando insieme in alcune occasioni. Voglio dire, ci sono mille situazioni che possono far veramente ottimizzare al meglio questo duo. È vero quello che dici anche rispetto al centrocampo. Cargià è un ottimo giocatore, però il Thiago Motta che abbiamo visto nella scorsa stagione è difficilmente raggiungibile dallo stesso Cargià. Allora io credo che gli manchi ancora un qualcosa per spargere un po', diciamo così, un contesto tecnico di assoluto valore, prendendo un giocatore che possa fare le veci di Juric e di Karja allo stesso momento, cioè un giocatore abbastanza completo che possa appunto sostituire i due, e allora il meccanismo, diciamo, del centrocampo complessivamente non andrebbe, non sarebbe così danneggiato. È chiaro che insomma Thiago Motta l'anno scorso è stato un valore aggiunto incredibile, tra l'altro molto inaspettato, perché insomma nessuno pensava che avrebbe potuto comunque risorgere tra virgolette così in fretta. Certo, a meno di un'esplosione di Jankovic, cosa che Gasperini si augura, sarei coccolato nel corso di tutta l'estate telefonandogli e mantenendo stretti contatti. È chiaro che quello è un giocatore di talento, di personalità molto ondivago, però se esplode sul serio per il Genoa può essere la prossima grande cosa, magari per il mercato della prossima estate. C'è già chi scrive, penso che Genoa e Fiorentina ad oggi siano più squadre e più squadra come gruppo e più forti del Milan. Che ne pensate, un ascoltatore? Io penso che vabbè, oggi il Milan è ingiudicabile, è un cantiere, ci sono molte idee e molto confuse, aspettiamo di capire che Milan sarà. Credo però che Genoa e Fiorentina oggi come oggi dovesse iniziare il campionato, insomma, sarebbero più attrezzate. Però in generale io credo che alle spalle dell'Inter l'equilibrio comunque sarà ancora più spietato nella prossima stagione, e questo è sicuramente un bene per, diciamo, per tutto il campionato e per il movimento in se stesso, perché insomma equilibrio ce n'è stato veramente poco in questi ultimi 3 anni, dove l'Inter l'ha fatta assolutamente da padrona, vuoi perché la Juventus era in Serie B, vuoi perché il Milan ha stentato a svecchiare una rosa che insomma andava ringiovanita molto prima rispetto a quello che sta facendo adesso, giustamente secondo me, la dirigenza rossonera. È vero che poi c'è stata la crescita di realtà come lo stesso Genoa, la Fiorentina, il Palermo e il Napoli di cui accennavi all'inizio, e sicuramente queste sono squadre che assurgono a protagoniste perché secondo me hanno una strategia vincente a livello societario, ma soprattutto hanno due conduttori importantissimi in panchina, perché insomma la valorizzazione dei giocatori passa attraverso assolutamente la conoscenza dello spartito, il Genoa forse più l'anno scorso rispetto alla Fiorentina, perché ha stentato un pochettino, anche se poi il risultato ha dato ragione ai Viola, però il Genoa si è fatto preferire sotto questo profilo. Sì. Devo dire che la Fiorentina comunque nell'arco dei 3-4 anni in cui Prandelli è in panchina si è fatta sempre apprezzare anche attraverso l'organizzazione dei giochi, e questo è fondamentale secondo me, perché un gioco di squadra a così alto contenuto di protagonisti 11 contro 11 e poi con tutta la rosa va al di là assolutamente dell'individualità pur magari eccezionale. Io posso trarre alcuni esempi, per esempio nell'NBA in America, dove sono stati fuori classe che però nella propria squadra non riuscivano a fare squadra, e andati dall'altra parte hanno deluso, e poi la squadra si è rinforzata proprio con due o tre elementi magari medi, ma che hanno fatto diventare squadra veramente l'organico, e di conseguenza hanno fatto meglio a livello di classifica e di gioco. Cioè, ripeto, il gioco di squadra è sintomatico che sia appunto di squadra, nel senso che debba essere espresso attraverso tutti i componenti. In questo senso Fiorentina e Genoa si fanno sicuramente preferire alle altre. Senti, in un ruolo che conosci molto bene, in una maglia che è stata tua, c'è la partenza anche di Ferrari, che è destinato alla Turchia, un contrattone per Ferrari, 2,5 milioni a stagione, per 4 stagioni, dai turchi, pare arrivi Dainelli. Può essere un problema? Ferrari è stato importante tra i vari giocatori rigenerati e rilanciati da Gasperini, c'è anche l'ex romanista. Può essere un problema questo per una retroguardia che funzionava benissimo? Non per il valore di chi lo sostituirà, secondo me, perché non so se sarà Dainelli o un altro, ma la società opererà per il meglio, e oltretutto ci sono già all'interno dei giovani importantissimi, perché al di là di Papastatopoulos, tipo Pitti, e di Diava, che non è più giovanissimo ma comunque ha fatto un buonissimo campionato, c'è questo Tomovic che comunque sta facendo cose egregie in Serbia, è già approdato giovanissimo alla nazionale maggiore, ma comunque uno probabilmente arriverà. E l'unica problematica è che devo dire che Ferrari aveva dato veramente un'impronta molto importante alla squadra. squadra sotto il profilo dell'organizzazione, perché lui riesce comunque a pressare molto alto come vuole un po' Gasperini da tutti e i tre difensori. Dainelli, in questo senso, se dovesse arrivare proprio il Viola, contrariamente a quello che si pensa, non è assolutamente un lento, è uno molto alto, sarà ma ha forza nelle gambe e potrebbe riuscire al meglio in questo contesto. L'unica problematica di questo giocatore è che ha sempre avuto qualche piccolo acciacco muscolare che ne hanno un pochettino sconfitto la continuità, diciamo, di rendimento. Però se arrivasse lui, io per esempio, è un giocatore che quando commentavo la Fiorentina ho sempre visto che ha una grande personalità, una grande forza, oltretutto dicevamo proprio dell'altezza, che non va a discapito della forza e della velocità, perché come abbiamo detto ha forza nelle gambe a livello muscolare, ma poi diventa un vantaggio nel gioco aereo, sì. E di conseguenza hai un doppio, una doppia valenza importantissima. Quindi può essere l'uomo giusto. Sì, certo, Ferrari, ripeto, ha fatto un buonissimo campionato, questo non si può negare, che insomma se rimaneva probabilmente era meglio perché conosceva già i meccanismi, però ripeto, io credo che in questo senso la società opererà meglio. Voglio dire, in sostanza e in sintesi, è più facile trovare, con tutto il rispetto, un sostituto a Ferrari che a Thiago Motta. Non c'è dubbio su questo. Mi sembra molto interessante anche il Napoli. Domenica parlavo con Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, dicevo, ma Genoa è quella che nel complesso sta facendo il mercato più interessante. Lui aggiungeva il Napoli, per l'appunto, che ha innanzitutto trattenuto Lavezzi, vediamo in maniera quanto convincente. Quagliarella, Cigarini, Zuniga e anche Campagnaro sono giocatori perfetti, io credo, per la squadra di Donatoni. Assolutamente sì, ed era obbligatorio da parte del presidente e di Marino operare in questo senso, perché Napoli, visto nel girone di ritorno, era veramente un qualcosa che aveva fatto emergere anche tra l'altro positivamente il lavoro di Reia, perché insomma aveva portato la squadra comunque a un certo livello, pur non contando, ecco, se non in alcune rare eccezioni, in giocatori veramente importanti. Io ho avuto l'opportunità di commentarlo almeno 4-5 volte quest'anno in Napoli, e devo dire la verità che insomma mi balzava all'occhio che una mini rivoluzione andava fatta, ed è stata fatta bene però dalla società, perché qui parliamo di Quagliarella, insomma, valore assoluto. Parliamo di Campagnaro, che se sta bene fisicamente è uno dei migliori difensori che c'è in Italia. Zuniga lo volevano tutti. Zuniga è un giocatore che... Tutti, ma assolutamente. Zuniga è un giocatore che conosco dai tempi della Colombia, quando giocava in nazionale, nella sua società. Insomma, mi sembrava un pochettino scoperto sotto il profilo difensivo, invece un po' il lavoro di Giampaolo, un po' lui stesso, che è molto rapido, baricentro basso e quindi difficilmente saltabile nell'uno contro uno, ha migliorato questa tendenza, e quando attacca è un'ira di Dio, quindi benissimo anche Zuniga. Cigarini è l'unica cosa che manca, è un po' il discorso che faccio sempre per dire su Codrea, quando l'abbiamo avuto a Genoa a 18 anni sembrava un piccolo fenomeno, perché sì, era un genio del calcio, no? Un ragazzo che a quell'età lì dettava i tempi, aveva una personalità. Gli manca qualche chilo di muscoli a Paul, sia a Paul Codrea che anche a Cigarini, ecco l'unico, perché altrimenti trattasi anche di Cigarini di giocatore importante in un ruolo assolutamente indispensabile che non era ricoperto nel Napoli dello scorso anno. Sicuro. Quindi anche il Napoli ha fatto molto molto bene. Sicuro. Claudio, prima di salutarti e lasciarti le vacanze, una battuta sull'altra metà di Genova, perché c'è Cassano che lavora, in controtendenza, ha finito presto l'estate in anticipo rispetto agli altri, e prima ancora della data del raduno della Sampdoria, eccolo lì tra corse, macchinari vari per presentarsi tirato a lucido. Questa non me l'aspettavo, francamente. Ma io invece sì, nel tu senso sì. Che ti dico, ma no, nel senso che onestamente per fare il campionato che ha fatto Cassano l'anno scorso, cioè le chiacchiere stanno a zero, qui non è che nel calcio moderno ti puoi, solo perché hai talento puoi scendere in campo e fare il buono e il cattivo tempo. Per fare il campionato che ha fatto Cassano è necessario che si fosse allenato in una maniera ottimale, quindi vuol dire che è cambiato un qualche cosa a livello di testa, e non lo so il merito di chi sia, comunque sarà anche ovviamente anche suo, ma anche della società, dell'allenatore, assolutamente. Però il giocatore è sempre stato bene, non è più ingrassato, sta bene fisicamente, non si è mai fatto male, non ha mai avuto ammonizioni. Purtroppo a livello generale devo dire che questi concetti fanno fatica ad essere assorbiti, perché è un po' come quello che, diciamo così, non studia tutto l'anno e poi magari è talmente intelligente, si prepara alle domande della professoressa nell'ultimo periodo e risponde bene, perfetto, però poi dopo hanno sempre i professori un qualcosa, insomma, gli chiedono sempre un qualcosa di più, e questo accade nei riguardi di Cassano da parte per esempio del CT della Nazionale, Marcello Lippi, e comunque anche di richieste che rispetto al valore del giocatore non sono così ricche, perché insomma lui meriterebbe che l'Inter, il Milan, il Real Madrid si interessassero a lui, però stentano ancora a fare delle offerte importanti proprio perché non sono convinti che il cambiamento, certo, sia strutturale invece che contingente. Non è detto che ciò che funziona a Genova e alla Sampdoria possa funzionare anche altrove, i conti potrebbero non tornare. Claudio, grazie, è sempre un piacere parlare con te. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie davvero a Claudio Onofri. Allora, torniamo con diversi ascoltatori. Carlo, Andrea, Lorenzo, Franco, 80024 0024 numero verde. Ho anche tantissimi messaggi, 349 238 6666. C'è ad esempio uno degli ultimi arrivati, mi dica qualcosa sulla mia Lazio. Qui oggi parliamo un po' di chi insegue, forse ha già preso per la coda Milan, Juventus può essere, l'Inter ancora è troppo lontana, chi insegue, cioè Fiorentina, Napoli, il Genoa, la Roma che si è radunata e di cui parleremo più tardi. Sulla Lazio, dunque, la Lazio l'ultima è questa, parlalo Tito, la Lazio non ha messo in vendita né Pandev, né Ledesma, né De Silvestri, che tra parentesi potrebbe finire al Genoa. I tre vogliono andare via e abbiamo concordato un'uscita a un certo prezzo. Se arriva quel prezzo, vanno via. Altrimenti restano. Lo ha detto Lotito, che ha aggiunto: se qualcuno pensa di utilizzare questa cosa per fare pressione, lo inchiodo non alla panchina, ma alla poltroncina della tribuna. Lotito ha detto questo. Carlo, da Pisa, buongiorno. Buongiorno, dottore, e un saluto a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Dunque, io volevo parlare di Maggi, ne parlerò fra un secondo, se mi permette. Sì, prego. Però queste notizie che vengono da Madrid mi lasciano molto perpresso. Quali? Perché quelle degli acquisti di tutti questi grandi campioni, le notizie secondo in generale, me allo sport non fa bene. Ma secondo me più che altro lo sport, guardi, le dico cosa ha detto Platini questa mattina qui l'agenzia: qualcosa di anormale che mi dà fastidio, personalmente non capisco come si possa spendere 90 milioni di euro per un giocatore. L'acquisto di Cristiano Ronaldo pone interrogativi, ma se Real ha la garanzia delle banche, puntini di sospensione. In ogni modo, già nel 1984 il passaggio di Maradona al Barcellona, dal Barcellona al Napoli, 7,5 milioni di dollari, cioè equivalente di 5,3 milioni di euro, era stato considerato indecente. L'ex campione della Juventus promette misure per migliorare il fair play finanziario. Faremo qualcosa, ci stiamo lavorando, ma ci vorrà un po' di tempo, forse 2 o 3 anni, voglio stabilire delle regole. Questa è una delle battaglie principali di Platini. Ma io credo, aggiungo, Carlo, lei dice non fanno bene allo sport. Secondo me sono cose che, insomma, con il calcio c'entrano fino a un certo punto. Dica. Sì, no, ma io pensavo anche, diciamo, ai debiti. I debiti del Milan erano circa 80 milioni. 68. Ecco, quelli del Manchester, perché sì, si dice Manchester, cioè il Manchester è accampato nel suo accampamento, perché Chester in latino vuol dire castrum, cioè, nessuno lo attacca, perché lui c'aveva già 800 milioni. Cioè la differenza tra me è qualcosa in più. È tutto rimane, cioè è una cosa assurda. Ha venduto qualcuno, ma quello che ha incassato fa il solletico al grande debito che c'ha. Sì. Com'è possibile che si possa andare avanti così? È questo che, cioè, la differenza, il Milan ha avuto dei problemi grossi, ha dovuto vendere. Il Manchester è normative, venduto, ma, Carlo, normative. Ma c'è una differenza enorme. No, ma indubbiamente sono sistemi profondamente diversi di gestire gli affari calcistici. Sistema inglese, sistema spagnolo, sistema italiano, non sto parlando di fiscalità. Sto parlando di strutture, di norme, di normative interne che permettono a questi club, di, con l'appoggio delle banche, come sottolinea Platini, di gestire il loro business in maniera differente. Vuole dire qualcosa su Moggi? Sì, la rapidamente. Prego, veloce. Quest'uomo ha sbagliato in maniera clamorosa, anzi ha sbagliato al di là poi anche della sua intelligenza, perché come poteva pensare che queste cose poi a lungo andare non si sarebbero sapute. Però voglio dire, tra lo sport e il resto della società ho l'impressione che ci sia uno scalino un po' troppo grande, perché noi abbiamo dei personaggi, diciamo ai massimi livelli, ai massimi livelli istituzionali, che dico, rispetto a quello che ha fatto Moggi, credo che se le cose stanno come si vocifera e sono cose, diciamo, che sono gravi a vari livelli, no? Sì. Mi perdoni, ma il comune mezzo gaudio però non funziona. Ci sono delle norme, ci sono delle sentenze anche, bisogna rispettarle. Poi è chiaro che ognuno frequenta gli amici che vuole. Però ci sono anche delle normative, tra l'altro un articolo del codice di giustizia sportiva secondo cui è fatto divieto nello svolgimento di attività di gestione della società di avvalersi di soggetti non autorizzati, di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. C'è una squalifica attiva, la linea di confine è molto sottile, l'importante è che non venga attraversata, stando le cose come sono ora. Andrea da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Volevo fare una piccola osservazione, una domanda su Milan. L'osservazione è che mi sembra che ci sia in questa società una confusione molto spiccata, nel senso che da una parte della società si parla di giovani, di un inserimento di giovani, di un allenatore giovane, di un calcio nuovo, veloce. Dall'altra parte i nomi che sono in rosa sono sempre i soliti, cioè Jankulowski, Zambrotta, Gattuso, sì. Seedorf, Ambrosini, adesso quanto pare arriverà anche Luis Fabiano, quasi trentenne, quindi mi sembra che le idee non sono molto chiare in questo senso. La domanda è se da qui alla fine del mercato probabilmente verranno fatte, diciamo, delle cessioni ulteriori e degli innesti, speriamo, di giocatori giovani. Ecco. La ringrazio. A lei Andrea. Grazie Andrea. Intanto il Milan già qualche giovane è andato a prendere in giro. Abate, che era suo, quindi Di Gennaro, è stato riscattato. Zigoni, che è stato fatto rientrare alla base, insomma qualche giovane c'è. È chiaro che la politica societaria rimane molto confusa, si cerca un attaccante, Dzeko è sfumato, si è parlato di Adebayor, ma secondo me non è un obiettivo praticabile e perseguibile per le casse di Viaturati. Io credo che non sono così convinto di vedere Pirlo nella prossima stagione in rossonero. Entrassero anche quei soldi, si potrebbero fare altri discorsi. Era molto nebulosa la situazione al Milan. Lorenzo, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Io volevo solamente una denuncitazione su questo, diciamo, tra virgolette, colpo della Fiorentina di Natali. Perché ecco, io diciamo non lo conosco come giocatore, però ho avuto la sensazione, insomma, mi sono un po' cascato le braccia, ecco, sentendo questo, però ripeto, non lo conosco. Quindi volevo sapere un attimino da fonti un pochino più informate che tipo di giocatore è, se può far comodo, diciamo, a questa Fiorentina. Lorenzo, grazie a lei. Insomma, Natale giocatore non più giovanissimo, trascorso all'Atalanta, ora al Torino, è una trentina d'anni, giocatore molto forte fisicamente. D'altra parte a Prandelli serve un giocatore con queste, secondo lui serve un giocatore con queste caratteristiche, un giocatore di grande forza fisica, di grande stacco, con qualche gol in faretra, perché sui calci piazzati è molto forte. Però stante l'incostanza di Dainelli, di cui si parlava prima con Claudio Nofri, evidentemente a Prandelli serve in mezzo alla difesa un giocatore con queste caratteristiche. Chiaramente non è quello che ti cambia la faccia alla squadra, giocatore anche duro, con una certa propensione al cartellino giallo. Tant'è, lo vedremo, così come vedremo, io credo Dainelli al Genoa al posto di Ferrari. Franco, provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere un suo parere per quanto riguarda una notizia oggi apparsa sul Corriere della Sera, che praticamente dice Collina largo ai giovani, in sostanza arbitri. Lei cosa pensa se magari si intervenisse anche con non so, con le videocamere, con qualche aiuto, visto che i giovani magari a volte sono più propensi anche un po' a sbagliare? Cioè, insomma, guarda, i giovani ci vedono bene. Sì, giovani... beh, sicuramente ci vedono bene, ma magari un po', a volte un po' di sudditanza, insomma, un po' anche avere. Io sono, premetto che sono interista, sì, e sono andato tante volte quest'anno a Milano a vedere e ho visto degli errori a favore naturalmente dell'Inter, che proprio effettivamente magari, non so, se c'era un po' di equità, ma... forse non so. Franco lasciamo stare, io non sarò mai d'accordo su telecamere, attrezzature varie a bordo campo, salvo la questione dei sensori dentro i palloni, se dei sensori lungo le linee di porta, quelli sì. L'unica tecnologia che secondo me è ammissibile è quella. Per quanto riguarda il resto, i giovani ci vedono benissimo e vedremo come potranno lavorare, insomma. Grazie Franco. Ecco che torniamo prima con una comunicazione di servizio sulla scorta di un SMS. Paolo scrive: buongiorno, volevo ricordare che sabato inizia la corsa più importante del mondo, il Tour de France. Ne parlerete oggi o domani? Da domani in poi tutti i giorni, caro Paolo, cari ascoltatori, parleremo di Tour de France, ci mancherebbe altro. Per adesso vorrei continuare a parlare di calcio. 800240024 è il numero verde, dunque tema del giorno è chi insegue il Milan, l'Inter e la Juventus, sulla scorta del fatto del giorno che è il ritorno in campo della Roma, che si è radunata e comincerà a lavorare. Sono particolarmente d'accordo con quanto scrive Luigi Ferraiolo sul Corriere dello Sport nel suo fondo Voglia di riscatto, sottolineando come insomma è una Roma con pensieri divergenti, da un lato il campo, da un lato appunto la voglia di riscatto, da un lato una squadra, qui sono particolarmente d'accordo, una squadra forte, seconda secondo me soltanto all'Inter sul piano qualitativo, chiaro, da rinfrescare, da rigenerare, da ritrovare tutti i ri che volete, però certamente una squadra di alto livello. Dall'altro lato ci sono invece vicende societarie che non possono, io credo, non avere un peso in questo inizio di stagione, quantomeno della Roma. Luigi Ferraiolo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Luigi, grazie. Quanto peso possono avere le vicende societarie sulla stagione della Roma? Io mi rifiuto di pensare che sia possibile concentrarsi solo sul campo quando c'è il pentolone societario che bolle, non sai da che parte arriverai. Sì, questo è vero. Noi diciamo sempre, credo che sia una sacrosanta verità nel calcio, che avere una società forte, una società efficiente è già almeno mezzo scudetto o comunque già una cosa fondamentale, importante. Purtroppo non è il caso della Roma, che sta vivendo i giorni che tu sai. Però io credo anche che la squadra, cioè bisogna mettersi su due piani, cioè il problema societario è quello tecnico. La squadra ha tante cose da doversi far perdonare, ha comunque la garanzia di uno stipendio che fino a prova contraria la gestione attuale paga, sì. Il monte stipendi della Roma è tra i più alti, è il terzo o quarto del campionato italiano e quindi io voglio dire c'è anche da parte del gruppo, della squadra, di Spalletti il dovere e io mi auguro anche il desiderio, la forte volontà di riscattare l'ultima stagione e insomma di diventare protagonisti laddove non lo può essere la società in queste settimane, in questi mesi. Credo che la città e i tifosi hanno subito così che un avvilimento, un dileggio continuo con tutte queste trattative fantasma, vere, presunte, false, eccetera eccetera. Ecco, io credo che è il momento perché la squadra diventi protagonista di se stessa e faccia il suo dovere fondamentalmente, è questo che deve fare. Poi certo, se la società trovasse un assetto più stabile, se riuscisse magari anche a comprare due o tre giocatori che a Spalletti sarebbero molto utili, tanto meglio, certo. Però non dobbiamo dare alibi a questa gente, ecco, questo è il mio senso. No, sono d'accordissimo con te, quale futuro immagini per la società? Ma guarda, io credo che sia inevitabile che la famiglia Sensi lasci e che mi sembra che le banche, Unicredit, sia stata molto chiara su questo. E c'è anche un aspetto, direi, non secondario per quanto riguarda il momento contingente. Dovrebbe essere nominato, si è detto, un commissario, chiamiamolo come vogliamo, insomma, da parte delle banche, che dovrebbe avere il mandato di trovare e di vendere la Roma, di trovare insomma un acquirente magari più credibile di quelli che finora si sono avvicinati o meno attorno alla Roma. Benissimo. Io però mi chiedo che autonomia avrà l'attuale gestione, cioè la famiglia Sensi. Siamo già in una fase, come dire, no, di curatore fallimentare che ti impedisce di fare certe cose, oppure il commissario dovrà soltanto soltanto trovare acquirenti e quindi realizzare questa operazione che mi sembra inevitabile. E questo è anche un po', no, la Roma è in un limbo un po' strano, per cui non sai se la famiglia Sensi può operare, fino a che punto, e dall'altro ci sono delle esigenze impellenti, certo, che è quella di mandare avanti la stagione. Quindi è un momento molto delicato, ma io penso che nel giro di settimane, di mesi, adesso è difficile, non ho la palla di vetro, ma dovrà cambiare proprietà, perché l'Unicredit l'ha detto in maniera molto chiara, mi sembra la famiglia Sensi non abbia la possibilità, forse più che l'intenzione, di onorare quel debito abbastanza ingente che ha, e quindi credo che ci vorrà un nuovo acquirente. Intanto servono presto 30 milioni di euro, mi pare di capire, per mandare avanti la stagione, e qualcuno fatalmente partirà. Io penso di sì, teniamo conto che la Roma l'ha sempre fatto in questi anni, certo manca questa volta, mancano i soldi della Champions, però la Roma negli ultimi 3-4 anni, insomma da quando appunto la famiglia Sensi ha dovuto gestire con poche risorse, è riuscita ad autofinanziarsi stagione su stagione, e direi rimanendo anche, lasciamo stare l'ultima che è stata una stagione balorda anche per infortuni, ma rimanendo su buoni livelli, insomma la Roma è stata la rivale dell'Inter 2 anni fa, in Europa per 2 anni seguiti è arrivata tra le prime 8, quindi vuol dire livelli ottimi. La Roma poi non è una società che vince lo scudetto ogni anno, lo sappiamo, no? Anzi ha un passato abbastanza tribolato, quindi sotto questo aspetto è abituata a cedere un giocatore importante, 1-2 a seconda, poi con quello che resta, se resta qualcosa, a tentare una carta. Io credo che tra l'altro questo è un mercato nel quale, se si fa qualche eccezione al di là del Real Madrid, non ci sono società piene di soldi ricchi. Insomma, quando il Milan vende Kakà, forse siamo ad una svolta epocale, no? Quindi ecco, in un mercato come questo, con un minimo di intelligenza, di bravura, pur vendendo, non so chi venderà Batista, venderà Juan, venderà non so, insomma quello che sarà più facile e più conveniente vendere, resta comunque un'ossatura di una squadra che ha dei giocatori importanti, sì, dei sì, giocatori che sono anche pagati per quello che valgono, quindi voglio dire, non stiamo parlando di una squadra di metà classifica, quindi io credo che trovando quei che dici tu, i 20-30 milioni necessari per la gestione ordinaria, la Roma poi abbia l'obbligo di fare un campionato all'altezza. No, non c'è dubbio, ma ripeto, secondo me a livello qualitativo la Roma è seconda solo all'Inter, addirittura più attrezzata rispetto al Milan e alla Juventus attuali, poi vediamo cosa combineranno sul mercato, però la Roma è una squadra di assoluto spessore, anche se di fronte al disastroso avvio della scorsa stagione un po' tutti abbiamo detto, beh, si è chiuso un ciclo, no? È finita la Roma meravigliosa di Spalletti che per 2 stagioni ha fatto venire i brividi all'Inter, è finita. Io credo che in questa stagione servirà come non mai la fantasia di Spalletti, il più estroso dei nostri allenatori. Serve qualcosa di nuovo e di diverso, non credi? Ma sicuramente, io penso che il valore aggiunto di questa squadra, che non ha mai navigato nell'oro, quindi come acquisti, come possibilità eccetera, è stato il gioco di Spalletti, è stato sempre qualcosa in più che le ha permesso di rimanere a certi livelli. Forse è finito un ciclo l'anno scorso, però se c'è la volontà vera, autentica, l'entusiasmo da parte di Spalletti di ripartire, del gruppo di ripartire, io credo che si possa aprire, non dico un ciclo, ma un momento particolare di questa squadra. Non dimentichiamo che le altre, la Roma ha tante incognite, ha questa situazione societaria tremenda, però voglio dire, il Milan c'ha in panchina, voglio dire, dopo Ancelotti secondo me avrà un peso. Ancelotti è un grande, è uno che ha fatto ha segnato un'epoca dopo Sacchi del Milan, per come la vedo io. La Juve c'ha un ex difensore in panchina, per carità, sta investendo, ha preso anche un giocatore molto importante, ne prendere altri, le altre non hanno fatto grandi cose, certo l'Inter mi sembra che resti per ora, se non ci saranno fughe, partenze, perché anche questo è da vedere, quindi voglio dire, l'immobilismo forzato della Roma per certi aspetti può diventare un punto di forza e non un punto di debolezza, perché ha un gruppo e un allenatore che si conoscono, un allenatore che io considero molto bravo, ecco, che se ha la scintilla quest'anno può in una situazione così disagiata e difficile trovare la forza per ripartire, ecco, certo. Questa è la speranza per chi sta dietro alla Roma. Sono d'accordo con te. Per chiudere, la notizia del primo giorno di scuola, attesa per la verità, è il ritiro di Vincenzo Montella, che lascia il calcio giocato e avrà un ruolo nel settore giovanile della Roma, un ruolo importante, perché io sono sempre più convinto del fatto che quella è la vera miniera d'oro giallorossa. L'unica squadra italiana che può dire davvero di assomigliare un pochino al Barcellona, perché il settore giovanile per la gente è anche identificazione, e in questo la Roma è riuscita a costruire qualcosa di unico. Devo dirti con una certa amarezza anche che negli ultimi anni, da quello che so, perché certo io non è perché controlli tutti questi aspetti, ho sentito dire che il settore giovanile della Roma, come tu dici, non solo ha dato fior di giocatori, ma è diventato anche un fiore all'occhiello della società, è stato un po' trascurato, perché come tu immagini, quando le disponibilità economiche poi sono quelle che sono, allora si taglia su certe cose e ci sono meno osservatori, meno gente che insegna, eccetera. Ecco, quindi io mi auguro che la Roma ripotenzi e ritorni sul suo settore giovanile. Tra l'altro Bruno Conti era il grande responsabile e competente di quel settore, da alcuni anni è passato alla prima squadra. Sicuramente il settore giovanile per una società che non ha molte risorse come la Roma è fondamentale. Montella è stato un grande giocatore, ti devo dire che negli ultimi due anni quelle piccole pensioni ha fatto con tristezza facevano pensare già ad un ex calciatore, quindi io trovo forse giusto, opportuno, dignitoso che abbia preso questa scelta. Speriamo che si inserisca in questa tradizione di una società che ha tirato fuori gente come Totti, De Rossi, eccetera, eccetera. Grazie Luigi, grazie, grazie a te, tante cose, ciao. Mentre c'era il traffico, io stavo guardando in TV qualche golletto di alcuni di quei giocatori che al Real Madrid sono chiaramente in esubero. Beh, insomma, Van der Vaart, Huntelaar, Robben, lo stesso Van Nistelrooy. Ricordiamo che in Spagna è possibile iscrivere al campionato 25 giocatori, non di più. Insomma, ce n'è di roba da comprare. A proposito di comprare, notizia di oggi, anzi due notizie di oggi: Zapatero che dice preferisco Kakà a Cristiano Ronaldo, e gli diamo totalmente ragione. Altra notizia: Kakà mania a Madrid, in due ore vendute 600 magliette, alla media di una ogni 20 secondi, se non ricordo male a 70 euro l'una, perché lì le magliette taroccate non esistono. Carlo, provincia di Recco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, era per la questione morale, insomma, la differenza di fiscalità italiana rispetto agli altri campionati. Questo per dire che sinceramente è stupefacente che il primo a lamentarsi, e forse l'unico, è proprio Gagliani, voglio dire. Insomma, Gagliani che si guardasse un po' intorno prima di fare certe dichiarazioni, perché se le fa a me, io posso alzare le spallucce e dire vabbè, che ci posso fare. Ma insomma, se guardasse la busta paga ogni tanto, quando lo pagano a fine mese, magari scopre che c'è Berlusconi che è presidente del Consiglio, e forse nel Consiglio dei Ministri non c'è solo Alfano. Se non può fare qualcosa lui, sinceramente io non riesco a capire queste lacrime di coccodrillo, che molte volte si dice lacrime di coccodrillo, cioè tanto per dire, ma sì, mai come stavolta, secondo me. Ma no, io penso che nessuno vorrebbe vedere una fiscalità agevolata per poter prendere dei calciatori. Insomma, quando io vado a pagare le tasse pago tutto il mio, mentre no, per i calciatori che vengono dall'estero le tasse valgono di meno. Ma come? Questo sarebbe inaccettabile, credo, per i più, no? Leonardo, provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo intanto per chiederle, secondo lei, che tipo di giocatore è Diego, questo acquisto della Juve così oneroso, se è veramente uno che può fare la differenza, e cosa può mancare. Cioè, è vero che alla Juve manca un questo centrocampista, come si dice, D'Agostino, comunque con quelle caratteristiche, per poter fare un ulteriore salto di qualità. Dunque, Diego, sono molto curioso di vederlo quest'anno. Credo sia la stagione in cui capiremo effettivamente quanto vale questo giocatore, anche perché è discorso in cui si può inserire anche Dzeko. Non considero il campionato tedesco un gran banco di prova. È vero che Diego ha fatto cose splendide anche nelle coppe europee, però io credo che questa sia la stagione, potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione di questo giocatore, che così, come lo si è visto e come lo si vede, ha grandi doti tecniche, ma soprattutto un gran fisico, ha corsa, ha capacità di essere incontrista quando serve. Insomma, è un giocatore davvero interessantissimo. Poi vedremo, io credo, in questa stagione italiana quanto vale realmente Diego. È un giocatore di cui la Juventus aveva bisogno, è inutile nasconderlo, perché dopo tanti tentativi falliti con i vari Thiago e tutti gli altri che conoscete, un giocatore con queste caratteristiche la Juventus ce l'aveva bisogno. Ha bisogno, è vero, un centrocampista, D'Agostino sarebbe perfetto, ma sarebbe perfetto anche Diarra, che la Juventus sta inseguendo dal Real Madrid. Io credo che servirà prima o poi anche un sostituto per Camoranesi, perché giocatore determinante per la Juventus nelle ultime stagioni, negli ultimi anni, però non è eterno, ha avuto un sacco di problemi fisici nelle ultime annate. Credo che serva urgentemente un sostituto per Camoranesi. Ad esempio Sneijder, sempre del Real Madrid, potrebbe essere una bella idea. Fabio Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, salve. Io chiamo un paio di considerazioni e una domanda, nel senso, allora, le mie piccole considerazioni è il fatto che il calcio italiano ovviamente ha bisogno di un modello di business differente, perché è chiaro che al giorno d'oggi non riesce più a competere con altri mercati, ma addirittura anche quello russo, che voglio dire, non riesce neanche, ci sono alcune squadre russe che fanno offerte importanti e non riesce neanche a competere in questo caso. Sì, vale non solo per il calcio ma anche per altri sport, però quello è un sistema di gestione ancora differente, lì c'è il magnate di turno che è vero. Il paperone di turno che scuccia i dollari, dica. Ma quello è vero, comunque di fatto credo che la politica di abbassare ad esempio la defiscalizzazione degli stranieri sia un controsenso, perché andrebbe a indebolire la valorizzazione degli italiani, certo. In quel caso ovviamente ci sarebbe una fiscalità piena, quindi certo. Bisognerebbe anche rivedere quella cosa. Per quanto riguarda la domanda, prima lei ha parlato di Moggi e del fatto che lui non può operare e che per questioni federali non possa operare all'interno del campionato italiano in quanto diffidato, nella federazione o meglio, in quanto diffidato e inibito e tutto quanto. Sì. Una domanda, ma Preziosi, presidente del Genoa, come fa a condurre tutte le operazioni in prima persona, facendo operazioni di mercato, rilasciando interviste, andando nelle assemblee di Lega, nonostante sia condannato e inibito, e se non sbaglio, per 5 anni, quindi è ancora attualmente in vigore. Questa è una grande domanda che io mi chiedo da parecchio tempo. Poi ammiro la politica di gestione del Genoa, che secondo me è una delle migliori, è una che sta sposando un modello di business più adatto all'attuale situazione. Però mi chiedo come sia possibile farlo. Sono d'accordo. E come sia permesso. Guardi, non glielo so dire, e comunque a livello, io sulle inibizioni dei dirigenti sono sempre stato molto scettico, perché poi si trova sempre il modo per raggirare questi ostacoli. Non so quale sia attualmente la posizione di Preziosi all'interno del meccanismo, quindi prima di rispondere vado a controllare. Domani proverò a dare una risposta, perché è giusto controllare anche quale sia lo status giuridico dell'attuale presidente del Genoa. Non so se su di lui siano tuttora pendenti delle sentenze in giudicato. Ecco. Lorenzo, provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno a lei. Ho appena sentito, adesso che avete già trattato un po' il discorso Moggi, però io lo volevo vedere sotto un altro punto di vista, che era questo. Stamattina mi è capitato di aprire un giornale sportivo, non lo leggo spesso, però stamattina per caso in hotel stavo aspettando un collega e leggo di questa storia di Moggi che ha avuto la possibilità di avere, è stato a cena con un presidente, il presidente del Bologna, no? Ma quello che mi ha lasciato basito, al di là del discorso personale di Moggi, che secondo me dovrebbe nascondersi, sostanzialmente dovrebbe o comunque abbandonare quello che è il discorso del calcio, farebbe solo bene al calcio, ma quello che mi ha lasciato un attimino perplesso da sempre è che ho letto così dei commenti dei vari presidenti, anche di grosse squadre italiane, che lo trattano un po' tutti con deferenza, cioè come il ragazzino che ha rubato la marmellata. Pochi sono quelli che hanno il coraggio di dire Moggi. Evidentemente è vero quanto dice Moggi. Non so se avete letto un'intervista di oggi sul Corriere della Sera. Dice: la mia rete non ha mai smesso di funzionare. In due secondi alzo il telefono e ho comunque i miei amici, i miei agganci, i miei contatti. Questo lei non trova? Beh, un po' non sì. È preoccupante. Sì. È preoccupante perché effettivamente sembra qua. quasi che si abbia paura a dire quello che si pensa su Moggi, parlo di questi... Evidentemente ancora, vuol dire che evidentemente ha ancora un certo potere, e ancora diversi amici, poi ognuno... si sceglie l'amico e frequente va a cena con chi vuole. Quanto alla deferenza con cui viene trattato, beh, innanzitutto è uno comunque dell'ambiente, quindi non mi sorprendo, come ho letto. Lui chiede al Genoa: ho bisogno di 4 biglietti di tribuna d'onore, gli dicono sì sì te li diamo. Questo francamente non mi sorprende, mi sembra del tutto marginale. Però è evidente che se ci sono così tanti presidenti che vanno in udienza privata da Moggi a chiedergli consigli, sottolinea lui, a titolo totalmente gratuito, e questo è sempre avvenuto, non è avvenuto soltanto negli ultimi giorni o mesi, beh, vuol dire che Moggi, oltre ad essere uno che conosce molto bene il calcio, che conosce molto bene l'ambiente, e questo è vero, evidentemente conta ancora qualcosa. Leggetevi l'intervista di oggi sul Corriere della Sera. Andrea Wimbledon, per chiudere, Alessandro Merli, buongiorno. Sì, buongiorno. Senti Alessandro, cosa dicono oggi i giornali inglesi, molto enfatici in questo periodo con Andy Murray? Beh, direi che non si parla d'altro sui giornali inglesi. Andy Murray è dappertutto, la cosiddetta Murray mania ormai è scoppiata come un virus, e peggio di un virus, non si parla assolutamente d'altro che di Andy Murray. Ora si vedrà se Andy Murray avrà la forza poi di superare l'altro Andy Roddick nella semifinale di domani. Sì, comunque Murray mania in Inghilterra, oggi leggevo delle cose assolutamente esilaranti per quanto riguarda i titoli dei giornali, tutta l'Inghilterra aggrappata alle manone di questo scozzese. Oggi è il giorno delle donne, invece si va verso una riedizione della finale in famiglia, Williams contro Williams, secondo te? Ma è abbastanza probabile, anche se al momento Elena Dementiera, che in campo contro Serena, non sta mollando neanche un centimetro, direi, perché sono 6-5 in questo momento, 40-0, anzi proprio in questo momento sul 6 pari, e quindi andranno al tie break del primo set, non sta mollando un centimetro Elena Dementiva, naturalmente, nonostante sia molto meno potente di Serena. L'altro scontro pure favorita Venus, però non dimentichiamo che Dinara Safina, che è la sua rivale di oggi, è pur sempre la numero uno del mondo, non ha lo stesso palmarès in termini di Grand Slam delle due sorelle Williams, ma comunque il fatto che sia numero uno del mondo dovrà pur significare qualcosa. Eh sì. Per chiudere, hai mica fatto un salto dai bookmaker, cosa dicono per quanto riguarda questo gran finale del torneo? Ma per i bookmaker il favorito resta Roger Federer, non c'è dubbio. 5 campionati più la finale dell'anno scorso persa per un soffio contro Nadal, che naturalmente quest'anno non c'è, hanno un significato ben preciso. Per il momento il re di Wimbledon resta Roger Federer, salvo poi essere smentiti, però avrei qualche dubbio. Naturalmente il secondo favorito per i bookmaker è Andy Murray, naturalmente direi sostenuto anche dalla massa di scommesse in suo favore che stanno facendo in questo momento naturalmente i suoi sostenitori inglesi. Però se dovessi scommettere io, scommetterei ancora su Roger Federer, che tra l'altro ha fatto un campionato in tutta souplesse, direi quasi viaggiando quasi in incognito, insomma, sì, con sì, tutta l'attenzione concentrata prima sull'infortunio di Nadal, poi sulle glorie di Murray. Federer ha fatto il suo cammino molto tranquillo e pian piano intanto è arrivato in semifinale. Giocherà sì, contro sì, Tommy Haas, che ha avuto diciamo una resurrezione clamorosa, perché è un giocatore che dato per spacciato perché si era fracassato una spalla, però un giocatore di grande talento, però credo che insomma non c'è strada sbarrata, sì, no, non c'è dubbio. Federer resta grande favorito, anche perché ha gestito con immensa classe un ruolo di favorito mai così evidente come in questa stagione, come in questa edizione in cui manca Nadal. Grazie ad Alessandro Merli, chiudiamo di corsa. Alessandro Merli da Wimbledon, grazie a Flavio Suardi in redazione, a Fabio Cantadone in regia, ci sentiamo domani alle 14.